in onda Shabalon, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone, alle riprese video Valeria, è arrivato anche da bere. Buonasera a tutti, decima Buonasera. Puntata. Shabalon, decima puntata. Che... Bravi. Ottima scelta. Allora, stiamo per iniziare. Sì. Ecco, io diciamo che dopo il secondo sorso vi saluto in anticipo. Ciao a tutti, è stato bello. E la nostra mascotte ovviamente vi saluta. Stasera parleremo di una, dopo lo sport, forse l'argomento di cui siamo più informati. Ma con calma, dopo siamo più ferrati. Ma dopo? Solo dico questo. Questa è Shabalon, ormai la conoscete, ci seguite in tanti, grazie per l'affetto. La prima cosa da fare assolutamente è condividere il video che state vedendo. Perché? Per chi condivide c'è tanto amore. Tanto amore. Oh, ricordatevi, questa potrebbe essere una serata, tra l'altro, enjoy, ma di questo ne parleremo poi. Iniziamo con la musica e stasera parleremo. Ma non è casuale, enjoy ne parleremo poi. Pazienza. Iniziamo con un po' di musica che non c'entra niente con questa serata, ma dopo sarà solo tutto improntato su quella testa lì. Borracha al verte pasar, pero a ti que nada te importa, te vas directa al siguiente bar. Te resueltas tus problemas, pero solo vienen más. No te aguantan ni las paredes y dibujas ese a caminar. Y orgías de emociones, días duros de resaca, hay que aliviar con cervecita y aguantando hasta la mañana. Y orgías de y Arturo te resaca, hay que aliviar con cervecita. In diretta audio, in questo mistero di cui ancora i nostri ospiti infatti non hanno capito niente, perché non si è capito se siamo in quale diretta siamo. Abbiamo ascoltato che prendiamo, se siamo La Flor dell'Otro con Boracia dal loro album Utopia del 2015. Infatti è un'utopia che piace a qualcuno. Il titolo fu più azzeccato, era molto carino. Allora ecco, bravo. Si va via, dai, ciao. Momento formale. Vai. Perché andiamo a presentare. Buonasera. Chiaramente i nostri ospiti. Questa è Shabalon. Shabalon. La decima puntata. Potete siamo seguirci. Il 16 di dicembre 2016. Esatto. Poi passa il tempo. Passa il tempo. Ci avviciniamo verso la fine. Tanto pagata. Pensa come dovevi essere 20 anni. Sai come potremmo sottotitolare questa puntata? Sì. Balla su balla. E via così. Ma come? Non ci hai pensato, vero? No, anzi, mi sembrava di aver fatto una scelta azzeccata. Te lo dico sinceramente. Ho anche chiesto consiglio. E quello no, un primo ospite, caro Marcello. Marcello. Aspetta. In questo caso è troppi fogli. Aspetta, perché è arrivato una. Applausi. E vabbè. Spontanei, via. Spontanei. Allora, stasera parliamo di musica. Di grande musica. Con uno dei gruppi più importanti della storia di Foiano. E almeno di gruppi a Foiano ce n'è tanti. Ce ne sono stati. Sicuramente il più importante è che stasera sia qui. Ah sì, ecco. Certo. Se non l'unico. Parliamo di chi? Degli Elephant. Maestro, lo sa. Allora, stasera abbiamo due dei maggiori esponenti degli Elephant. Anche perché sono in cinque sostanzialmente. Due quinti. Allora, alla mia destra il frontman. Abbiamo il frontman, che come vedete si è adeguato frontman un po' al nome. Sì, sta avanzando sempre di più. Marco Andrea. Sempre più front, meno man. Ecco, il meno man, puoi venire di qua per favore? Che ma il gli meno piace, man gli un po' piace a lui. Ma okay, Marco Andrea Terziani. Bravo, in arte. In arte? Marco Andrea Terziani. Marco Andrea. Però tutto attaccato, in arte. Però scritto tutto attaccato senza spazi. Come la mail e la chiocciola? Sì, vabbè, no, c'è stata la chioccia. E alla sua destra, o alla mia sinistra, abbiamo Samuele Petti. Che strumento suona Samuele? La chitarra. L'ukulele. Oh, questi, aspetta, questi ragazzi, ormai ragazzi non sono più. Insomma, si comincia. Esatto. E salutiamo anche Fabio e Francesco Sognati, il sindaco sta guardando la. E questo ci dà veramente sindaco tanto. Noi abbiamo il patrocinio del sindaco. Abbiamo il patrocinio del comune. No, guarda, io avrei la curiosità massima di sapere se in questo momento ci guarda con fascia tricolore o senza. Potrebbe scrivercelo però, Potrebbe scrivercelo. Se ha la fascia tricolore diventa un momento istituzionale. E quindi anche noi ti metti su. Ti abbottono anche una camicia. Parte l'inno, tra l'altro, che abbiamo anche qui un. Aspetta, facciamolo. Fratelli d'Italia, l'Italia si è destra. Cosa diritti si ha, non si può cantare tutto. Ci battute dice che va. E i diritti che li prende, ma meglio. Francesco, il sindaco, invece, come rappresentante dello Stato. Quindi dicevamo. E la trasmissione potrebbe anche finire più. Concludersi, la personalità c'è stata. Esatto. Che gli Elephant. Gli Elephant, che come dice il nome, sono cinque. Ah, pensavo fossero delle fare. Le fa. Cinque. Marco Andrea, vuoi anche salutare e nominare gli altri componenti che stasera non sono venuti e poi cominciamo a parlare veramente di quello che fa. Si posso dire parolacce? No, sì. No, dopo solo dopo le merda siete no, ma va bene, vabbè. Comunque rimane tutto in famiglia. Sì, no, arte. Con affetto. Si è sentito l'impressione familiare con cui hai mandato le piste. Saluto anche Roberto Miconcini. Aspetta, scusate, perché qui funziona che è molto interattiva. Roberto Bocchetti dice: ma ci conosciamo già in qualche modo per vie traverse tramite Riccardo Benini dell'Igera, che fa il programma su Radio 23. Ah, è vero! Tuo grande ascoltatore. È un gemellaggio con Radio 23 di Milano, hai ragione, è vero, per vie traverse. Ciao Roberto, grazie, è un onore. Grazie di essere qui. Sì, esatto. Poi salutiamo anche Nicola. Siamo già a 10 ascoltatori e telespettatori in diretta. Fabio Croci e anche Roby Scala. Stiamo attendendo intanto la frase storica, la frase del sindaco. Istituzione. Certo. Oh, se vuoi venire al mio posto, la bombante, cioè lui si mette nel frontman. Non sembra il caso, Allora, non abbiamo detto i nomi però dei vostri compagni. Non fa uguale, ci interessa. Ma se volevano saperli, vieni qua. Scusa, sarebbero. Non usiamo condizionali, perché per amor di Dio. No, ci mancherebbe altro. E... allora, gli altri sono Giulian Gori, sì, diciamo loro, poi non se ne parla più. Giulian Gori, che suona il basso, Jacopo Pecchi, che suona il sax, e Tozzi Giacomo, che smanetta nella batteria. Hai detto Tozzi, mi è venuto un brivido a me. Io fan di Tozzi. Di Umberto. Ma sul serio, magari fosse vero, guarda. No, Umberto, quello c'ha il denfuori. Io sono un fan di Tozzi, sono un fan Tozzi. Applausi. Cioè, Simone, l'abbiamo inquadrato stasera, Simone? E giù che cala l'ascolto. Ma perché? Ma perché ci pregiamo, Enzo, di avere qui gli Elefunk stasera? E prima di questo vorrei farti una domanda. Riusciremo a parlarne? Perché si continua così? Io già credo che lo share. Facciamo la speciale di Natale. Lo share, lo sherpa praticamente. Sto prendendo colori, no? Sì, tra l'altro stai prendendo anche la testa colore. Balla, comunque. Balla. Sei un po' come... Se mi porti una pizza divento una figurina introvabile. Pizza balla. Questa l'ho capita io e forse altri sei. E tutti quelli nati dal 48 in poi. No, dal 48 al 70, perché di più no. Pizza balla era un giocatore dell'Atalanta, se non erro. La cui figurina... la famosa figurina. Che ha assurto a fama eterna. Perché non si trovava mai là. Tra l'altro era un secondo portiere. Scusa, portiere. Sì, c'è un messaggio. C'è un messaggio di Luciano, Nello, Giustini. Se parlate di musica e di complessi paesani, non dimenticatevi degli Angeli Blu, che abbiamo invitato 10 volte. Purtroppo. E che non sono mai potuti venire, diciamo così. Purtroppo. Però, ora, non è che stasera possiamo ricordare noi tutti i gruppi. Attualità e futuro. C'era un gruppo che ha chiuso stasera. Ora, visto che siete venuti, vi siete scomodati, se ci dite anche due cose. No, aspetta, proviamo a farla. Serio, no, se no si va via. Bevo, fa caldo, tra l'altro. Veramente. Iniziamo dall'inizio. Quando di solito si inizia da lì. Facciamo due minuti di serietà, poi dopo se no cala tutto. Quando siete nati? Ma no, voi, allora, nel lontano. Allora, ti parlo io perché lui ovviamente di nato non si ricorda neanche quando è nato, tra poco. Noi nasciamo negli inizi del 2000. Siamo una band che è stata formata da amici, quindi non da amici di Maria. Con Maria. Senza Maria. E siamo nati come gruppo di amici, dopodiché abbiamo iniziato a suonare e nel 2005, grosso modo, si sono conformati gli Elefunk, che inizialmente suonavano cover, quindi come tutti i gruppi. Come? Cover. Come? È già ubriaco, io chiedo scusa per averlo fatto bene e chiedo scusa a voi due, tra l'altro, però vabbè. Suoniamo in Val di Chiana, suoniamo in giro nei vari locali, sembriamo un gruppo di sciamannati, detta proprio francamente, però molto bravi, se mi permette. Grazie. Però io dall'alto della mia esperienza anche di gran gusto nel vestire, se mi posso permettere. Raffinati. Infatti dopo facciamo vedere qualche foto da qualche apparecchio telefonico. Ovviamente come tutti i gruppi che iniziano non sono granché, per quello che dicevo che eravamo un po'. Nel 2007 abbiamo avuto una fortuna eccezionale, la famosa botta di Gulo, va bene? E come ben sapete, i gruppi che suonano in giro non li ascolta nessuno, non li vuole ascoltare nessuno. Noi, per caso, non mi ricordo neanche bene come, abbiamo avuto un contatto a Zurigo e siamo finiti a suonare a Zurigo. Era a fine 2007, inizio 2008. Finiamo a Zurigo. Bello. Tra l'altro partiamo, era intorno a Capodanno, non mi ricordo, poco dopo Capodanno. Ci portiamo il nostro fido partiti col Pecchi con la febbre a 40. Il nostro sassofonista con la febbre a 40, quindi ce lo siamo portati là. E siamo andati a suonare a Zurigo. Praticamente ci siamo resi conto che quello che in Italia è la musica, al di là della musica funky, ma in generale la musica, non viene minimamente apprezzata. Quanto invece viene apprezzata all'estero. Viene aspettata all'estero. E è impressionante un locale del genere, che doveva essere tipo il Velvet di Zurigo, a parte la gente che c'era dentro, a parte la gente che saltava, a parte la gente che cantava qualsiasi brano suonassimo, tranne Umberto Tozzi, mi dispiace, non lo conosco. Però quindi evidentemente delle lacune ce l'hanno anche loro. Purtroppo sì, però in questo ci siamo resi conto che forse non eravamo noi sbagliati, ma magari che ci poteva pochino, essere uno spazio anche per voi. Che ci poteva essere spazio anche per voi. Il mondo è grande. Quello musicale, intendo. Quindi, questo ci ha dato, a parte scherzi, ci ha dato molta forza. Ci ha dato molta forza. Esatto. Nel dire noi facciamo la nostra musica e siamo convinti, eravamo convinti di farla bene, però è chiaro che se vai a suonare se pubblico, non hai mai un riscontro, la gente ti guarda così allucinata suonando un pezzo dei Wild Cherry. Non cherry. Musica, però, dai, cioè, la vita è bella lo stesso, cioè, passa, tra l'altro passa. Scusa, prego. Lui è color balla, ma anche te lontano non ci sei andato stasera. Tono su tono. Vedi, poi se mi permetti tono su tono in questa serata. Scusa, quindi è un impresario. La prima trasferta all'estero, diciamo, vi fa prendere consapevolezza delle vostre potenzialità e anche di, diciamo, una pubblico che può essere. E certamente. Certamente, guarda, ecco, certo, che politico, se, che se politico. Dici certamente, prendo consapevolezza anch'io, non lo fare. Pausa, saluto Andrea Capannelli, Andrea Fei, Caterina e tanti altri, Stefano, che ci stanno seguendo. Io devo farlo ogni tanto, questo interrompo per questo. Oh, di ritorno da Zurigo, la forza che ci ha dato Zurigo è stata soprattutto che in quel periodo noi avevamo iniziato a passare dalle cover ai brani nostri, quindi noi scrivevamo alcuni pezzi nostri che avevano un riscontro fino a un certo punto del pubblico italiano. Da lì abbiamo detto, beh, visto che piace quello che facciamo come cover ma anche come pezzi nostri, continuiamo, e abbiamo iniziato. Inizialmente ci vestivamo, poi faremo vedere qualche foto a Zurigo, ma insomma in quel periodo lì un po' colorati, non alternativi. Non quanto adesso. Io mi ricordo ancora la frase di Giulio, il bassista, che si presentò una volta con una camicina gialla e disse: guardate ragazzi che ho trovato. Niente, praticamente. Che poi, rispetto a già fa quello, 5 anni dopo si presenterà come il marchese dal basso, che voglio dire, è tutta un'altra charm. E quindi ci iniziamo a vestire, a ghindare in maniera funky, nel nostro modo di vedere la musica funky, e continuiamo con i nostri brani e si arriva praticamente al 2008-2009, in cui abbiamo una seconda, per noi fortuna, detta adesso. Nel 2009 ci iscriviamo al premio Valentina Giovannini, qui del Pozzo, certo, il ricordo della Valentina, e vinciamo questo premio, ma non solo vinciamo. Ma si sa che sono truccati i concorsi. Sono truccati, niente di per... cioè, non per meriti. Insomma. Infatti, però, la fortuna è che Vincenzo Incenzo, che era in giuria, e che per chi non lo conosce è famoso per essere il paroliere, lo scrittore di testi di Renato Zero, ci conosce, ci contatta e dice: bene, io ragazzi, per voi vi voglio portare ovunque poi... Era già un sentimento sbocciato. Sì, era già amore. E questo... forza dai, però Marco, perché fai così? No? È demoralizzato. La pasticca non l'hai presa stasera. Di solito sei più... Secondo me non hai preso quella delle 8. Dopo due ore fino a domattina la riprendo. Dopo prendo a digiuno, poi a digiuno. Chiaramente. Sì, accusa. Sì. Beh, no, è interessantissimo quello che dici. Per carità. No, stai, c'è il posto. Quindi vi porto ovunque. Li porto ovunque, questo portare ovunque in realtà si trasforma in portarci, tentare di portarci a Sanremo. Io però su Sanremo mi fermerei. Quanti minuti siamo? Fermati un attimo. Fate la sigla. No. Perché? No, niente. Sanremo è Sanremo. Allora, no, farei ora, metterei un attimo un brano. Noi beviamo. Sì, perché poi io... Tra l'altro è il nuovo pezzo... L'ultimo pezzo dei... No, non lo so se... Il nuovo pezzo degli Elephant. In realtà, in realtà è lui. Se mi dite qual è, perché io non ce l'ho segnato. Si chiama Tappo dentro al tubo. Tappo dentro al tubo, che è la canzone, pensate, che hanno presentato quest'anno, ma di questo ne parleremo dopo, alle selezioni di Sanremo 2016. Ma... Incredibile. Andiamo con il brano, che voi non sentirete in diretta. Possiamo fare sentire un pezzettino? Prova. Oltre a sentire il podcast. C'è un tappo dentro al tubo e mi va a scatti in video. Se non lo vedo sento che sclero e giro vago col fono in mano. E c'è un omino dentro al tubo che mi suggestiona un video. È un profeta illuminato, ci ha salvato, ci ha attaccato. Come un tarlo nella testa, mette soluzioni in tasca, sì. lista piena di spam e basta. Un tappo dentro al tubo mi manda a scatti il video, mi incazzo e sbrocco se la rete non si tocca. Noi siamo i followers, l'esercito dei followers, l'esercito che marcia tacci in mano a testa bassa. Ho un contratto conveniente stipulato dal call center, una signorina che non si capiva niente, e finalmente posso condividere, riguardare, tagliare, posso caricare tonnellate di immondizia. Ho l'ennesimo fenomeno virale fatto apposta per quelli come me che vogliono solamente cazzeggiare. È un prodotto del futuro, dall'idea di un uomo libero. Ma se non hai il touch, se non hai il love, se non hai tu, se non hai WhatsApp, benvenuto nel mondo in tempo reale. Io ti metto il telefono e mi sento male. Dentro al cubo mi manda scatti il video, mi incazza e sbrocco se la rete non si tocca. Noi siamo i followers, l'esercito dei followers, l'esercito che marcia tacci in mano a testa bassa. Amici che ci ascoltano per solo in podcast hanno due fortune: intanto non ci vedono e lascia stare. E poi si sono sentiti bene dentro al tubo, tappo dentro al tubo, che è l'ultima canzone dei bravo, non mi veniva la non storpiate il nome, no, con, allora, insomma, facili giochi di parole, insomma, guarda, senza N. Addirittura sì, ecco, Marco Andrea dà proprio lo spunto per la prossima domanda. Il genere musicale, come vi ha fatto incontrare? Diteci qualcosa di, del funk. Vai. Prego. Ah, è un bel discorso. Ah, di niente. Vabbè, vado via. Se proprio non te la senti, passiamo oltre. Vabbè, raccontaci qualcosa su Cristina D'Avena. Più... Ecco, praticamente rispetto a Cristina D'Avena siamo un po' così lontano. Bravo. Cioè, quando la musica, quando un paio di umiltà, quando Cristina D'Avena spacca, magari si avvicina al funk. Bravo. Avete messo tipo Memole, no? Spacca. Spacca è questo, insomma, questo modo di dire giovanile, cioè, che ci piace, insomma, che piace. Ma il funky allora è un genere per adulti? Allora, il funky sciofani. Allora, è una serata fantastica. Così, il nostro genere poi non è funky, diciamo. Allora come, siete dei truffaldini. Come tutte le band che hanno una forte personalità, scusate. No, ma si vede anche dal colore della maglia. Dovete ricapisciare. Da pattern, insomma. E... nel senso, il nostro è un po' un mix di generi. Poi, diciamo, è più vicino al funk, diciamo, al Motown. Ah, ecco! Motown style. Ah, il Motown! Cioè, non siamo dalla parte degli inglesi. Ah, poi, anche è stata la Brexit, Poi, insomma, ci stanno anche sul cazzo per questo. Porca miseria. Io il Motown è quando piovando, giusto? Bravo. No, scherzo, non abbiate pazienza. No, però vabbè, funk, cioè già nel nome comunque un po' di funk, sicuramente, sì, se no certo, cioè, in un altro modo. Però di funk è come di, sì, è proprio come dire fi. Fi, esatto. Come di fi, c'è tanta. C'è tanta. No, ma non è detto, almeno per quanto riguarda Marcello. È una serata così. Vabbè, una serata funk, magari ecco quello che voleva dire Marco è, ecco, spiegacelo te perché non sei capito. Non sei capito. Una cippa. Ci sono varie declinazioni di funk, come ci sono varie declinazioni di rock. La metti così, quello di qui. Funk, quindi si arriva in tanti estremi. Un congiuntivo del funk è come cazzo. No, perché io sapevo il gerugio. Funkando. Quello a cui noi ci siamo ovviamente ispirati è l'America. Ma non solo nei suoni, perché modestamente siamo bravissimi, scherzo. No, a parte scherzi, però quello a cui noi siamo ispirati soprattutto nell'abbigliamento, siamo ispirati agli americani, a George Clinton, ai Parliament, a Funkadelic, sono gruppi nati intorno appunto a George Clinton, che è uno dei grandissimi della musica americana, il quale aveva questo modo di porsi sul palco estremamente divertente e coinvolgente per il pubblico. Loro erano famosi negli anni 70, 80, ma tuttora si presentano sul palco con dei vestiti improbabili. Sono fulminati. Io mi ricordo ancora questo chitarrista, perché sono chitarrista, che si presentava e si sta ancora presentando alla grande età, 70 anni abbondanti, con nudo, con il pannolone, basta, e suona in quel modo e fa tutto lì, fa tutto lì, quindi non va mai al bagno, fa tutta la tutto i vestiti già, ma ci arriveremo, non ti preoccupare. Quindi ma al pannolone sicuro, quindi è da seguire, poi lo fai vedere pure, è un gruppo veramente da seguire. Tra l'altro invito appunto a cercarvi su internet, su YouTube, George Clinton, e appunto vedere qualche straccio di concerto, che sono una cosa spettacolare. Noi nella nostra modestia, a parte scherzi, ci ispiriamo. Siamo ispirati. Ma ci ispiriamo perché siamo convinti che, al di là del genere, al di là della declinazione che noi seguiamo come musica, comunque per noi deve essere un modo per far divertire il pubblico, per coinvolgerlo e per passare una bella serata. Tra l'altro, prego, volevo dire che per chi si vuole anche rendere conto di quello di cui stai parlando, avete anche un sito, sì, e certamente un profilo Facebook dove, certo, diciamo, uno si può rendere conto e può anche ascoltare e vedere alcune profilo Zuckerberg non l'ha usato il primo anno, poi dopo ha smesso di profilo, però comunque che ha detto? Una pagina avranno probabilmente Facebook, una pagina, certo, comunque basta che ci cerchiate con www.elefunk.net, oppure basta che andiate su Google. Ascolta, dopo andiate andiate l'hai indovinato. Grazie. Andiate, ma chi? Ma è mai successo? Almeno nella nostra trasmissione. No, scusa, cioè, fai, questo dimostra che abbiamo noi, i nostri ospiti. Loro, ma noi no. Loro. Poi ci potete anche trovare se venite a casa nostra. Ci trovate. Cioè, se andiate a casa loro, se veniate a casa loro, portiate anche un dolce che lo gradiate. Quando venummo andassimo, perché Portonno. E finiamo. Allora, io tra l'altro volevo far notare la dedizione di Samuele, che cerca di spiegare realmente le cose come stanno, e lo fa in modo egregio. È una battaglia aperta, hai dei deficienti che fanno proprio un bailam. Aspetta. Messaggio. Allora, devo salutare altre persone che hanno preso parte, tra cui Marica Tiezzi, Enrico che dice viva Shabalon, sempre viva, Moni Agnoletti, Cristina e Alice, grazie ragazzi. Salutiamo anche Edi, che ha raggiunto un grosso traguardo. Ma non voglio è dire. Vero, brava Edi, complimenti. Valnea, dove sei? Da Treviso. Arriva in ritardo perché l'ha detto. Ok, allora te l'aveva detta te. Ma lo dice dopo. Sì, ma perché noi abbiamo degli... cioè i nostri spettatori ci telefonano prima. Oh, allora stasera ci sono. No, guarda, un quarto d'ora stasera dopo, non posso venire. Vabbè, che sono pagati. No, assolutamente sì. Magari avere i soldi per pagare il pubblico. No, dice perché mi chiama. Hai pagato? Questo è il canone all'incontrario. Siamo noi che paghiamo gli spettatori. Tra l'altro volevo salutare anche una persona di cui non ricordo più il nome, quindi andiamo avanti. Comunque volevo posso spezzare una lancia? Se è tua, ci puoi fare che ti faccio. Dipende dove la mia. Tanto questa dalla mia. Se devi rompere la roba, facciamola. No, volevo spezzare una lancia per Samuele, per la sua serietà, perché non solo è serio qui stasera, ma è proprio serio, nel senso che guida gli Elefanti. Salva il gruppo, diciamo. Salva il gruppo, perché siamo un branco di shine. Detto questo, coglioni. Ora bevi, dai. Eravamo arrivati a Sanremo. Vabbè, addirittura. No, mi sembra. No, non ci stiamo ancora arrivati. No, c'è. Stavamo arrivando. Abbiamo capito il genere musicale che fanno, cioè quello del pannolone. Io... È un genere incontinente. però infatti l'ha preso dall'America e l'ha portato in Europa. Non è intercontinentale, è incontinente. Ora vediamo come dove si va a finire. Lo scelgo io l'argomento. Parliamo dell'incontinente. Ma perché siamo qui? Chiamavo Wonder, almeno venerdì sera non c'è veramente niente. Niente, tra l'altro. Ah, ecco che devo salutare Mauro Casciari. Ah, grandissimo. Che è un grandissimo, che oggi ci ha salutato in uno dei suoi video su Facebook mentre andava in Croazia, a Zagabria, e quindi lo risalutiamo. Lui ovviamente ora non ci sta vedendo, ma dopo lo telefono glielo dico, ti ho salutato, siamo parli. Telefono è bellissimo. Lo telefono. Perché d'altronde dopo che ti hai detto andiate io non posso dire che lo telefono, devo passare, sennò mi si cretta il telefono. E quindi diciamo che dopo tanto quindi saremmo andati a comandata, cioè, bravo. Non ci si fa. Siamo parlati di tante cose, ma un'altra volta. No, proviamo a rientrare, ma è anche io a rientrare, però no, sto scherzando. Allora, Samuele, dici qualcosa a te, ma... Serata enjoy, decisamente serata enjoy, lo posso assolutamente... Oh, sempre Shabalon, vi faccio vedere tutti, quello lo stampate. Applauso. Che cosa devo fare? Lascio le mani davanti alle scritte, lo so, vale, ma anche questo è prosecco, non è che acqua. Sì, ok, siamo in mano tua, come ieri. Sta andando bene. Quindi dicevamo che per la prima volta nel 2009, era il 2010, 2010 vi si apre davanti la prospettiva di Sanremo. Raccontaci. Cosa facciamo? Tentiamo di iscriverci alle selezioni di Sanremo. Allora eravamo pischelli, avevamo pochissimi brani nostri, non avevamo un album, non avevamo niente, qualche demo, ma robetta veramente. E tentiamo questa, tra virgolette, carta che ci viene concessa con il brano Elefante in Cristalleria. Il brano, tra l'altro, lo trovate su YouTube se cercate Elefante in Cristalleria e Elefunk. Il video è alquanto inquietante perché sorpresa è alquanto inquietante perché ricordo ancora che registrammo, ho fatto un soffitto, aspetta, registrammo audio dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Eravamo dal nostro amico Michele Pazzaglia, che saluto, di Città di Castello, che è il nostro fonico e diciamo chi ci registra in studio. E a tarda serata ci trasferimmo a casa Tozzi, quindi al nostro batterista. Sempre il solito brivido, Tozzi. E dove chi vi aprì? Una piccola Eva. Questa la capisco solo io. No, è una canzone di Tozzi, capito? Una bellissima canzone. Tra l'altro, la merda. No, Tozzi non si tocca, ragazzi. Ci aprì Tozzi, non era padre Tozzi. No, il campanello fa così. Ti amo. No, ti apro. È già bianco. Anche in condizioni. Su Elefanti in Cristalleria vi invito a guardare questo video perché è bellissimo in questa mazzata. Con il nostro amico regista che ci riprende molto dinamicamente, quindi sì, questa telecamera che ruota ovunque, però si intravede il collettore dei riscaldamenti dietro, che è anorma, testimonianza, insomma, quindi un video, ripeto, quanto inquietante. C'avevo anche il collo che Morandi morto. All'epoca Morandi, sì, famoso mangiato, famoso che all'epoca Morandi non, stranamente, non non apprezzo. Ma chissà come mai. Gianni. Gianni, hai capito che ti sei perso? Un po' sì. Ma... E questo era il 2010. Non contenti. Non contenti. Che facciamo? Che facciamo? Nel 2011 ci riproviamo nuovamente. E Gianni non gli frega niente uguale. Non mi ricordo, forse c'era la Clerici quell'anno. Ah. Aspetta, aspettami. Non mi ricordo, questo magari i telespettatori ci possono dare una mano, perché io non ricordo chi c'era nel... Sì, ma sembra anch'io, anche a me, sì. Era il primo anno della... Non mi ricordo. Quell'anno ci provammo, erano i 150 anni dell'Unità d'Italia, e quindi tentammo di fare un brano che fosse a tema. Accattivante. Quello. Accattivante, certo. Quello è un brano molto... A noi ci è rimasto molto nel cuore, soprattutto perché ci abbiamo investito molto tempo. Il video... Che si intitola... Miracolo Italiano. E io consiglio a tutti di andarselo ad ascoltare, perché secondo me è veramente veramente carino, molto bello. E anche quello lo trovate su YouTube, trovate il video, molto simpatico. Lì abbiamo giocato molto sulla storia, appunto, della... Questo puoi dire anche te, insomma, sì, sul testo. Sì, sì, sono io vestito da Garibaldi, insomma. Ancora c'avevo un po' di capelli. Barba, ecco, con la barba sembra proprio... Sì, sì. Preciso, Uguale. Mi ricordo andare a cercare il vestito da Garibaldi a Firenze. Che momenti. Che momenti. Però non ci hanno preso. La Clerici. Veramente c'è un'ignoranza in giro. Guarda, sul serio. Il mondo io... dello spettacolo. Sì, forse siamo gli unici che si sono presi. Vediamo come va a dire. Noi abbiamo accettato subito. Hanno chiamato. Fateci venire. Fateci una birra. Fatto, per una birra. Ma chi gli ha detto che la offri te? Offri te. Ah, Simone, bravo. Grande, Simo, grazie. Il primo album lo... Anzi, scusami. Il primo EP. Sì. Che sarebbe l'acronimo di... Ho detto anche acronimo, scusa. Non lo so. E che vuol dire? Qualcosa. Extended Play. Ecco, l'Extended Play, il primo che avete fatto è del 2000. Allora, il primo in realtà è una raccolta di brani che avevamo precedentemente sfornato. Sì, sì, e dentro ci abbiamo messo anche, se ricordo bene, questo doveva vedere su iTunes, ci abbiamo messo il primo che abbiamo fatto, Elefanti in Cristalleria, che avevamo fatto con Vincenzo Incenso. Questo noi l'avevamo chiamato Funk Shot compilation in onore di alcuni video. No, vabbè, funk shot, nel senso è uno shot del funk molto. Sì. C'è Marco Andrea che tutta la sera cerca di dire qualcosa che noi ce l'ho lì. Ma ci siamo quasi. Tra l'altro, questo, dimmi se possiamo andare avanti, perché devo raccontare un aneddoto. Dobbiamo andare avanti. Noi abbiamo partecipato al contest del Maggio Musicale Fiorentino nel lontano 2009, quindi era praticamente gli stessi anni di quel periodo. Nel 2009 abbiamo partecipato e abbiamo vinto. Vabbè, ma si sa che i concorsi sono truccati. Infatti, poi il Maggio Fiorentino, contest. Cioè. E mi ricordo ancora che ci fu la serata, mi sembra fosse tipo di giovedì sera, fatta lì al piccolo del teatro principale del Maggio Musicale. Ci presentiamo, vabbè, arriviamo in finale, vinciamo. Il giorno dopo ci chiamano e ci dicono: beh, dovete venire a conoscere, diciamo, che il team, l'organizzazione che vi ha votato, tutto quanto. E nell'occasione mi ricordo che ci arrivarono tipo 5-6 telefonate dai principali testate della Nazione, della Repubblica, e abbiamo anche avuto dei bellissimi articoli proprio con tanto di foto. Abbiamo una foto che per noi sta a cuore, in cui noi vogliamo, che era la foto fatta nel 2009 in quel periodo, e questa fu messa su doppia pagina sulla Repubblica, per cui uno apriva questo della nostra foto gigante. E mi ricordo ancora la telefonata, non mi ricordo chi giornalista era, e ero al telefono che parlavo mentre eravamo lì al Maggio Musicale, e mi fa: ma avevano visto ovviamente la Funk Shot Compilation, dice: ma cosa vuol dire Funk Shot Compilation? E io lì che mi arrampicavo nello specchio. Cosa vuol dire? Sono cose che... È un getto di funk. È un getto di funk. E lì che mi arrampicavo, sì, perché il funk è questo shot. La nascita del funk. E quanti minuti, Simo? 10, quasi 10. E allora facciamo un altro brano, sempre di... Di Elefant. di Tozzi non c'è niente. Stava dando. Facciamolo noi, lo sappiamo. Non ti capisco, scusa, non ti capisco. Non ti capisco, scusa, non ti capisco. Non ti capisco, scusa, non ti capisco. Faccio un giro sul portale. Tanti status da guardare. Frasi super, super impegnate. Riflessioni sgrammaticate. Se perdi il filo del discorso, oh, leggo ancora ma non capisco. Chiudi tutto, presto scappa. Fuggi via da questa capanna. Tu mi chiedi ma perché scritto come sta bene, come sta bene. Tu mi chiedi ma perché scritto come sta bene. Chilometri di acronimi, cultura della sintesi, ti inventi verbi nuovi, tipo filini che congiuntivi. Non c'è tempo per parlare, non c'è spazio per parole, ma nei messaggini ci sono sempre i tuoi puntini. Quando mi scrivi non ti capisco, io provo ma non ci riesco. Sembra aramaico, sembra tedesco, mi sento fuori da contesto. Oh! Mi sono dato alla lettura, cercavo un libro dell'orrore, ho letto scusa ma ti chiamo amore, ho scoperto l'invenzione dei lucchetti dell'amore, da attaccare sopra i ponti, ma che moda da dementi. Quando mi scrivi non ti capisco, io provo ma non ci riesco, sembra aramaico, sembra tedesco, mi sento fuori dal contesto. Quando mi insulti io non mi offendo, no, anche perché non ti comprendo. Parole confuse somigliano a un testo che mi fa ridere di gusto. Falcioni, ma sono solo abbreviazioni, GMQ io te lo dico, SM il fico, sono troppo avanti e non mi trovi sugli azzanti, al nexo posso andare, non ti puoi scappare, non metto gli accenti, alla faccia dei intelligenti, mandami un MSG, sentiamoci su, è per il sonno. Boom, minchia, scrivo con la K, tipo K, o me sai, SGSD, te ne vai. Ed eccoci tornati in onda, e ripetiamo, oh, solo insieme per con i nostri poi, amici dai. Di... Corsi. Io, suonano, allora, per spiegare, magari qualcuno ci guarda per la prima volta. Sarà anche l'ultima, probabilmente. Anche che cosa sta succedendo? Che, come vedete, siamo in diretta video sulla nostra pagina Facebook di Piazzalta. Questo video poi rimarrà, potrà essere ricondiviso, rivisto. Io lo guardo almeno tre volte per dire, per capire. Vabbè, tu sei un masochista. No, ma perché voglio, no, ma perché mi capire piace vedere... perché lo fai. Esatto. E come fa Marcello ogni settimana a mimetizzarsi sullo sfondo della trasmissione? E ma un potete... camaleonte. Esatto, il camaleontico. Ci potete anche ascoltare nel nostro podcast che va e che a differenza della diretta video ha anche la musica corredo. Corredo. Purtroppo c'è anche questo. E stasera è quasi tutta dei. Si è capito. Ma tornando agli Elephant, siamo arrivati a Sanremo, no? Sanremo. Siamo ancora prima. Siamo manca impegno. Vabbè, passiamo tutto e arriviamo a Sanremo. Oh, sto impeto. Nemmeno fosse sta manifestazione. Va bene. E che succede? Sentiamo un po'. Allora, chi è l'idea? Mi chiedi di andare a Sanremo. Allora, anzitutto noi, ecco, tanto che siamo in intimità con i 1500 persone, noi siamo un po' recidivi con Sanremo, ci abbiamo provato diverse volte, insomma, un po' alla chetichella. Le prime due volte abbiamo pubblicizzato, poi ho detto basta con le figure di merda. Giustamente. Avete deciso stasera di ricche anche quest'anno. Allora, quest'anno sempre col solito spirito, insomma, di dire se prova, ecco. Abbiamo detto, ma facciamo una canzone nuova, ragazzi. Era tanto che poi abbiamo un periodo un po' così rallentato. Facciamo un pezzo nuovo, così lo presento. Ma Sanremo, no, cioè, dai, diamoci una sbrigata. E quindi non abbiamo fatto un pezzo per Sanremo, studiato per Sanremo come abbiamo fatto altri anni. ci iscriviamo, mandiamo il pezzo, facciamo il video proprio trescissimo che è venuto bene. Abbiamo visto tra l'altro anche quello, sì, l'abbiamo visto. Pubblicheremo a breve. Abbiamo visto un'anteprima noi, sì, stasera. E fatto sta, Samuele un giorno mi chiama e fa, oh, ci hanno preso. Ma figli per il culo. Che è un gergo musicale. Però. Un gergo tecnico. Ci hanno preso un gergo musicale. Oh, ci hanno preso. Come ci hanno preso? Ma sei sicuro? Ma sei sicuro? Ma guarda a me, forse è un errore di stampa. Certo. E invece? E invece ci avevano preso tra i primi 60. Io ricordo che eravate almeno circa 600 a proporvi. Quindi insomma, una bella soddisfazione per noi e ci chiamano a fare queste audizioni a Roma. A Roma. In via Asiago, nella sede... Una delle sedi storiche di Roma, di Radio Rai. E niente, arriviamo là, gli Elefunk, i pianini Elefunk sbarcano a Roma, si arriva a Roma, già quando arriviamo lì insomma Beh, l'emozione c'è, penso, cioè, voglio dire, insomma, sì, ambienti storici. Sì, il problema del parcheggio, ecco, parliamo bravo, è un'emozione che non è, cioè io ho cercato di creare un attimo, il problema del parcheggio, il parcheggio è grosso, lo so, parliamoci 40 minuti del parcheggio, parliamo di 40 minuti del parcheggio. Come è andata a finire dopo avete parcheggiato? Sul Lungarno, noi siamo un po', gente. Sul Lungarno di Tevere. No, noi che siamo gente semplice, di chiaro. Ma si vede, insomma, si sente. A parte quando andiate e veniate, per il resto siete semplicissimi. Arriviamo in via Asiago, insomma, l'ingresso già tutto ipercontrollato, ci voleva il pass. Poi che c'era tutto l'ingresso metà detector, la faccia è quella che a un certo punto anche comandabili. E allora niente, ci stipano lì in una stanza, ma stiamo una mattinata lì, una mezza mattinata, perché ci dicevate prima fuori onda che eravate veramente tanti e che hanno fatto tutte e 60 le audizioni in un giorno, quindi dovevano era volare. Una corsa contro il tempo per macinare, sì, che dovevano a ruota ogni 3 minuti entrava un artista, usciva, entrava l'altro, usciva tutto. E come così avete fatto per spiccare in tutti i parcheggi? Non siamo spiccati. Quando siete entrati... No, aspetta, spieghiamo meglio. Voi a un certo punto chiamano gli Elefunk, voi entrate su un palco. Sì, in uno studio. In uno studio fatto con un palco e una gradinata tipo teatro. Tipo teatro. Che voi non vedete molto bene però, perché avete le luci davanti. Chiaramente abbiamo le luci, la giuria è al buio, la giuria ovviamente era composta dai giurati dichiarati, quindi c'era Carlo Conti e c'erano un'altra serie di artisti che giudicano gli artisti stessi. È tutto, noi. È tutto un artista. Un artista. È tutto artistico. Tutto artistico. Tutto artistico. E poi pensa che passa come arte anche quella di stasera. Pensa a te. Pensa un po'. No, per dire. E quindi salite sul palco e... E gli si spara subito due cazzate a Carlo Conti. Che in gergo, che detta così spiega anche il perché non siete stati presi. Se proprio vogliamo dirla, no, perché sì, vi chiedono di presentarvi. Ci presentiamo e diciamo che noi siamo gli Elefunk, veniamo dalla Val di Chiama, dalla Val di Chiana, portiamo funk e bistecche. E questo e subito vi ho detto, tra l'altro, ne abbiamo 4 o 5 per corrompere la giuria. Per mettendo, siccome poi non le avete portate, no, adesso... infatti, non ci hanno preso. Esatto. Per le perché erano in macchina, ma la macchina era parcheggiata lontano. Si erano scaldati. Ci avevano fatto la bocca alla bistecca. Alla bistecca. Finisce l'audizione. Tra l'altro, ci vediamo questa volta. Non si suona durante l'audizione, perché suonare l'audizione, no, scusa, voglio è il playback, perché suonare a e dimostrare che sei capace azione musicale, ma infatti è come dire, perché scorreggio con la scena, perché parlare di cose serie in una trasmissione, voglio dire, notate che Marcello è già 2-3 minuti che è zitto perché è passato dall'euforia dell'alcol ora alla sto guardando con grande interesse, la sbornia triste, arriva la famiglia Chimica, ora siamo nella squadra triste e poi c'è la fame chimica. Tra l'altro lui si è tutto rimbombato, cioè non capisce. Se potete fare anche un po' più piano. Aspetta, che intanto sì, eccoci. Questo messaggio è per dire, allora dunque vediamo un po', c'è un po' di messaggi. Andrea Serluca, ciao. Fausto Pulcinelli, Marco Bartoli, Simone Marini, ho già salutato, Giuliano Giustini, leggo in diretta, io non so. Anch'io ho suonato in un gruppo, ma a quei tempi erano gli anni 70, la massima aspirazione per andare a suonare era la Casa del Popolo di Guazzino. Vabbè, sì, ma anche ora non è che siamo andati più là. Anzi, magari ci fossero ancora. Salutiamo anche Giacomo e Valentino. E Mattia che si è unito a noi in questo momento. Ricordiamo che dovete, nonostante gli ospiti, fatelo per noi più. Fatelo per noi. Condividete questo video sia in diretta che in registrata. Vabbè, poi si sa perché, insomma, perché c'è l'amore. Allora, l'amore vince sempre. Se l'hai sciupato anche fronte retro in maniera che... Oh, ma posso fare? Ma si può fare un po' di polemica? No. Si può fare un po' di polemica? No. Su chi? No. Basta su sti anni 70, basta. No. Però, sai, lo so, però... Gli anni 70, nasce tutto da lì. Io, per esempio, nasco nel 71, per dire. Vengono prima degli anni 80. No, c'è anche qualcosa che è nato dopo gli anni 70. Volevo fare questo annuncio. Io su questo te. Non me ne siete accorti. Se non me ne siete accorti, c'è anche qualcosa che è nato dopo. Io ho dei dubbi. Anche io ho dei dubbi. Anche io mi unisco. Sì, perché secondo me già David Bowie, ho detto un nome che mi è venuto in mente, ma non ho idea di che parlo. Più proficui. Ma chi è? Prolifici. Non lo conosco. A quanti minuti siamo? Caldo, 7:20. E che ore sono, ragazzi? No, solo per capire. 22:52. Ah, siamo arrivati in fondo. Non si è detto niente. No, allora facciamo una cosa. Aspetta. Diciamo anche cosa avete pubblicato, che cosa si può trovare di vostro. 8 minuti, però. Questa, c'è gente che prende. C'è gente che prende anche iniziativa, eh? Io attenzione, perché scateno. Gli ultra, tra l'altro, distorce quando faccio così? No. Distorce anche il padre guardiano dei frati di Poltrona. Che salutiamo. Amorevolmente. Se è un guardiano, guardierai, voglio dire. Una delle puntate più ricche di contenuti della nostra storia. E siamo sempre stati siamo anche coglieri. I cosi. Ma per esempio, anche di questo Simone è felicissimo, le bussate sul tavolo con il microfono che poggia qui, cioè lui proprio salza e fa la ola. No, coltivate. Facciamo un... Ho fatto la volevo dice che le copre con dei bip. E domanda intelligente. Silenzio. No, volevo dirvi... No, dai, raccontiamo quello che avete pubblicato. Quanti brani all'incirca avete... creato, si dice così? Sì, questo me lo può dire lui. Scrivete i testi. No, però c'è un buon numero. Noi siamo, saremo intorno alla trentina. Noi siamo arrivati grosso modo a una trentina di brani, sì, originali vostri e pubblicati. Sì, no. Non tutti sono pubblicati. Noi siamo da 3 anni ormai, perché nel 2014 è stato pubblicato. Siamo su iTunes con il nostro primo album ufficiale, al di là dei vari EP che te mi chiedevi prima. Attenzione al nome. Abbiamo il nostro album ufficiale che si chiama MILF. MILF è un acronimo. MILF. Yeah. E digli cosa vuol dire in gergo. The meaning of the acronym. Music I'd like to funk. Per dire, no? Detta così. I cosi, no? Per dire. E quello c'è dal 2014. Quello dal 2014 che è disponibile su iTunes. Su iTunes e è anche in supporto fisico, CD fisico. Citerei, voglio dire che questo album è stato per noi importante perché è stato soprattutto prodotto come direzione artistica da Dario Cecchini, che è un sassofonista che non è quello delle bistecche. Omonimo. Un sassofonista gestista italiano molto la bistecca ritorna, come avete visto, senza dire, è lo scopo finale di tutto. Lui ci ha conosciuto nell'ambito del Toscana Musiche T-Rumors, che è il contest che abbiamo vinto, un altro contest che abbiamo vinto a Firenze, ma si sa che è un concorso, certamente tutta la vita. Infatti abbiamo vinto, quindi è un concorso indetto dalla regione Toscana, per cui dovrebbe essere in teoria abbastanza imparziale. Siamo stati fortunati a conoscere Dario Cecchini, che ha fatto per noi da tutor in questo contest. Con lui abbiamo pubblicato 2 brani, dopodiché ci ha seguito per questo successivo album, quindi MILF. Lo trovate online, trovate di questo album, soprattutto su YouTube, 2 video. Io i video vi consiglio, a parte le battute. Tra l'altro un video, dico una cavolata? No. Stavo per dire. Ah, scusa, scusa. Ma no, scusa se sono venuto, guarda. C'avevo anche da fare. prego. No, no, no, dillo te, dillo te. No, ma dillo te, dillo te. Dillo te, dillo te. Ti prego. Lo dico io. Insisto. Uno dei due video, certo, è stato girato e diciamo che il regista del video è il nostro... Ma porca miseria, scusate, porca ragazzi. Porca miseria. Anche porca miseria. Il nostro... Ma, oh, oh, è sparito. Simone. Simone è stato il regista del video. Di quale brano? Di Nato Naturale Funky. Nato Naturale Funky. Che è quello che ha avuto più successo, certo, no, se non fosse stato per il video, esatto. Purtroppo. No, chiaramente abbiamo venduto milioni di copie grazie a questo, chiaramente. Grazie a questo video, altrimenti saremmo rimasti sempre in Valdichia. Lo comprati tutti noi. Cioè, come si fa un po' noi con le 1500 visualizzazioni? Stessa tecnica, un garage pieno di... La stessa tecnica. Tanto per capirsi. Marci. No, infatti stavo pensando che dopo tutti... Progetti futuri. Aspetta, dopo tutte queste vittorie sparse per il mondo, però vi siete ridotti a Sciabalon. Quindi, comunque, è giusto però pensare al futuro. I vostri programmi quali sono? Progetti? Ma, senti, tra un'oretta se va letto. Questi sono... Aspetta, scusate, fermi. Saluto Roberto Andreucci da Roma. Roberto, venerdì prossimo proviamo a fare la diretta, se ci sei, con te, È un nostro grande amico, attore, produttore e via. Il signor Giovanni delle... Vabbè, allora, ci siamo dicevamo nell'immediato... Ciao Sandro, ciao Paolo! Aspirate ad andare a letto. Nel medio periodo... Fermi allora, fermi! Simone vuole mettere un'altra canzone loro, giustamente. Ma diciamo due cazzate. Sì, no, finora... Vabbè, senti, siamo facciamo stati... sentire, sono due cazzate molto grandi, Allora, un altro brano e poi concludiamo con i progetti futuri dei... Vabbè, insomma, musica, dai. Così. Così. Crisi di funk, yeah! Crisi di funk, crisi di funk! Questo stato mi manda in crisi. Io siamo di nuovo in onda. Parlavamo di parliamo dal Rinascimento a Manzoni, dove Manzoni, ripeto, vorrei essere preciso, non è Alessandro Manzoni, ma è un altro Manzoni che metteva dentro, no, metteva dentro le scatolette un'altra cosa. Vabbè, nel museo del Novecento a Milano ho fatto una foto. Vabbè. Troppo alti, diciamo, coniuga male un verbo, dai. Non mi riesco. Portonno, lo dico io, vai. Che è uno dei miei. C'era una ragazza che disse: sai, questa sera, ieri sera ci hanno portato con delle. No, siamo andate con delle amiche a cena, poi siamo andate dopo cena al cinema e poi c'è Portonno a ballare. E lì, normale. E poi ci portò a tutto vero, tutto vero. Si ciao, guarda. Si ciao. Te sei troppo intelligente. Ieri fa. Rimaniamo amici. Oh, ma è venuto. Dopo un'ora e mezzo. Ma purtroppo è quasi. È finita la trasmissione. No, sempre Sciabalon. Dovete condividere. Pipì. Appunto. Scusate, devo leggere. Devo leggere perché si è unito a noi Marco Bartoli. Sintetico e conciso si riferisce severo ma giusto, direi. E poi basta, per ora volevo leggere solo questo. Ma tu vi siete divertiti? No, ma che vi siete divertiti? No, progetti futuri. A Sanremo ci siamo divertiti. A Sanremo, siamo stati. Però pensa, a Sanremo era una roba. Comunque, nel senso, il nostro obiettivo, sempre in quello che abbiamo fatto finora, è divertirsi. C'è un po' il no, anche quello di tutti noi, insomma, ci siamo. Anche perché prendere la cosa troppo sul serio, poi ci rimani scottato. E poi etica la libido musicale, ovviamente, cioè, artistica. La cosa divertente era veramente per noi, perché noi veramente lo facciamo, anche questa cosa di Sanremo, qui siamo qui a pubblicizzare o a parlarne, lo facciamo veramente con una leggerezza che per noi è normale, perché lo facciamo in musica. Ma giro i coglioni, lascia fare. Non ce ne può, no, ma io ci credo, conoscendoli posso veramente credere. E... No, ma quando sei lì un po' ci fai la bocca, scusate, ti fanno un applauso, ti sembra magari. Siccome io li stimo come professionisti, ora tanto siamo, ma in altri non settori, ci sente nessuno, voglio dire, siete in grado di dire c'era qualità, voi siete stati esclusi. Lascia bene. Non abbiamo nemmeno avuto modo di fare polemica, però avuto modo. Non è un discorso di polemica, è un discorso di mercato. Cosa chiede il mercato? Ah, non lo so. Io lunedì lavoro, ma bravo. Allora, comunque, attenzione, è un grande obiettivo. Che ci dice, comunque negli anni 70 c'erano anche le ore, giornalismo pieno secco di cultura. Bravo, grande. Bravo. applausi. Aspetta, serata revival, bravo. Grazie Roberto, che tanto sapevamo. Ci ha dato una mano. Le ore hanno formato poi, insomma, culturalmente. Infatti ora Rocco si crede uno degli idoli degli italiani. Certo, poi le ore hanno dato un grosso contributo ai Iocolisti, tra l'altro. A noi ci ha dato una mano grossa. Anche noi si è dato una grossa mano. Stiamo scadendissimo. Ormai siamo più in fascia. Ma faremo una puntata sulle ore, perché no? Ma perché? Secondo me è pieno così. Intervistiamo le dirette interessanti. Se fate una puntata su loro, vengo. Ma lì è pagamento, te lo dico. No, vabbè. Allora, finiamo dopo una puntata ignobile, sì. Ma per colpa nostra, non vostra. Cioè, voi. No, nostra nella scelta degli ignobili. Finiamo con la domanda, appunto, che volevi fare. No. Progetti, sì. Le ho fatte 3 volte. Non mi hanno mai risposto, evidentemente non hanno progetti per il futuro. Allora, progetti per il futuro è riuscire a fare un altro anno, sicuramente. Certamente. Ma con una lentezza biblica. Cacciatori, Pokémon. Dai, sono da bravo. Con una lentezza biblica, anche perché voi per mangiare fate anche altro. Sì, poi nel mezzo ci sono affidati qualche figliolo, perché comunque il musicista si sa. Nella libido artistica. e quindi a breve, no? No, però non vogliamo, insomma, continuare. Avete già qualcosa? Certamente. A dire la verità, sì, c'è un po' di roba, ecco. Per ora c'è da lavorare. C'è da lavorare. Approfittiamo per farne un'altra di puntata più avanti. Sì, certo. E per magari presentare, quando sarà il momento, il vostro nuovo album, che si chiamerà Shabalon. Beh. Abbiamo una promessa da Iele fatta per rinnovare. Vabbè, un brano però Shabalon, sì, non ti dico tutto l'album, però un brano Shabalon. Un branino, dai. Anche Shabalon, vabbè. Vabbè, non importa. Abbiamo finito. Tre brani addirittura. Sì, tre brani. Che ore sono, scusate? 10:07. Grazie a tutti per essere stati con noi. Dobbiamo arrivare a oltre 1500 visualizzazioni per non perdere il trend. E no, abbiamo organizzato per finanziamento. Tra poco una festa grande, l'abbiamo chiamata Natale. Ma che fantasia! Già, originale. Non sappiamo se venerdì prossimo saremo in onda, ma probabilmente sì, anche se è il 23. Dire. Che è la vigilia della vigilia. È l'antivigilia. Ma antivigilia vuol dire che sei contro la vigilia? Ah, ok. È come l'anticristo. Perfetto, finito così. Ringraziamo, ringraziamo Marcandrea Terziani e Samuele Petti, che tra l'altro è stato il nostro fonico nel nostro primo Scenari Festival. E nonostante tutto si sentiva, voglio dire, per dire che non è poco. E non è poco. Grazie davvero, ragazzi. Grazie soprattutto per lo spirito con cui avete sopportato tutto questo. Marcello, dopo se volete lasciare un obolo anche per chi sa da comprare le balle nuove, capito? Sì, perché... è l'uomo balla, è l'uomo balla. Devo decidere se continuare con quelle del caffè o quelle del cuore. Sì, è vero, è un'aiuta diversa. Sì, tra l'altro la prossima settimana vorrei che tu mettessi balla balla per me, balla balla, ed ecco tutta la notte sei bella. Benissimo, grazie, scusate davvero di tutto. Condividete, mettete mi piace, fatevi gli applausi da soli. Grazie a tutti. Ed ora una splendida e originale sigla finale. Grazie a tutti voi. Avete ascoltato e visto Shabalon, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Eria. Erano con noi gli Elefunk. Anche. Con Marco Andrea. E Samuele. Ele. A venerdì prossimo. Ossimo.